24 mattino di Alessandro Milan. 7:20 minuti, eccoci cari ascoltatori, in diretta fino alle 9, 24 mattino e radio24.it. Ancora una buona giornata. Siete pronti allora alla rassegna stampa di oggi? Prima il sondaggio. Oggi parliamo di scuola. Sapete che sono sempre più gli sponsor privati per finanziare che cosa? Per esempio il materiale scolastico nelle scuole pubbliche, banchi, o non parliamo del caso di Adro, ma della vicenda di molti privati che pagano, visto che non ci sono soldi pubblici per le scuole, pagano il materiale dove studiano, con il quale studiano i nostri figli. Siete d'accordo? Siete d'accordo all'ingresso di soldi privati nelle scuole pubbliche? Votate su radio24.it. Ne parleremo poi alle 8:30 ed ora al punto la lettura dei giornali. In primo piano. Martedì 12 ottobre, l'apertura del Sole 24 Ore dedicata all'OPEC. L'OPEC teme il declino, un documento shock che è anticipato dal Sole 24 Ore che riguarda le politiche di risparmio energetico che potrebbero costare un impressionante abbattimento del PIL tra 5.000 e 10.000 miliardi di dollari in meno da qui al 2050. Un documento che verrà reso noto la settimana prossima, ma che il Sole 24 Ore ha avuto in anteprima. E poi l'Afghanistan, il giorno dei funerali dei 4 soldati militari uccisi in Afghanistan e che Radio 24 seguirà in diretta. Kabul, Italia via dal 2011, è il titolo di Repubblica. Bombe sui caccia, sì, della NATO per la stampa, così il Messaggero. Il Fatto Quotidiano mette in prima pagina lo sfogo di uno dei familiari. Ministro, godetevi lo show. Ieri uno zio, credo, di una delle vittime al ministro La Russa. Il Corriere della Sera invece apre sulla vicenda che riguarda in particolare Denis Verdini, uno dei coordinatori del PDL. Il rapporto che accusa Verdini: ha mentito, così pilotò gli appalti del dopo terremoto. Vedremo. Ma io vorrei partire da quello che è il giorno che tutto il Cile, ma anche tutto il mondo, attende, no? Visto che si parla sempre dei TV del dolore, TV spettacolo e grande attese. Sapete quante TV sono collegate da tutto il mondo con il Cile alla miniera di San José, dove oggi 33 minatori dovrebbero uscire finalmente? Sapete, sono intrappolati lì da giorni e giorni e saranno 130 televisioni da tutto il mondo. Regali, contratti ed esclusive. I minatori sono già stelle della TV, è già diventato un circo mediatico. Omero Chai ne parla a pagina 17 di Repubblica. Il Real Madrid ha regalato ai 33 minatori, tutti accaniti tifosi di calcio, un viaggio in Spagna. Così il Manchester United, grazie a Bobby Charlton. Poi crociera in Grecia, lune di miele da Acapulco, donazioni in denaro, iPod spediti dalla Apple di Steve Jobs. Sono ancora sottoterra, ma sono già dei volti internazionali, i 33 uomini che nelle prossime ore potrebbero finalmente essere liberi. Se tutto andrà per il verso giusto e se qualcosa, e speriamo di no, non andasse per il verso giusto, le televisioni, visto che torniamo alle polemiche di questi giorni in Italia, statene certi, non verranno spente 150 circa televisioni, 130 da tutto il mondo. Sono già stati spesi 15 milioni di euro dal governo cileno per riportare in superficie i 33 minatori. L'avvenimento verrà seguito in diretta da decine di network di tutto il mondo. E ovviamente i giornali e le TV si stanno già accaparrando a suon di esclusive e di denaro sonante le interviste. Per esempio all'ex calciatore, o il più richiesto forse è Johnny Barrios, il poligamo, quello che si è scoperto che ci sono due donne sopra che lo attendono. Discovery Channel pensa in grande, la TV nazionale cilena, già pronti documentari. Molti familiari di fronte alle offerte un po' si vergognano, alcuni si deprimono, altri non vogliono già parlare con i giornalisti presi d'assalto da giorni come sono. C'è anche un italiano che lavora e che ha lavorato per questo salvataggio, lo intervista Barbara Schiavulli, che per il Messaggero intervista questo ingegnere italiano in prima pagina. Io, ingegnere italiano, lavoro al piano per salvare i minatori in Cile. Si tratta di Stefano Massei, ingegnere pisano, da 2 anni lavora in Cile per Enel Green, è responsabile della soluzione C Sono tre le soluzioni, quella ispirata agli scavi petroliferi, tre soluzioni perché tre tunnel, dovesse andare male uno, c'è il secondo, evidentemente anche il terzo. E Stefano Massè in questa intervista racconta a Barbara Schiavulli come sia stato curato ogni dettaglio, un lavoro comune per non fallire, un'organizzazione totale messa a punto anche con la collaborazione del Ministro delle Risorse Minerarie. Lo trovate in prima pagina e poi prosegue all'interno questa intervista a pagina 13. Insomma, tutto è pronto per lo show salvataggio dei 33 minatori cileni e speriamo ovviamente che vada tutto bene. E noi che dire, ci fermiamo per pubblicità e meteo e poi ripartiamo dalle altre notizie dei giornali. In primo piano. È il giorno dunque dei funerali dei quattro alpini morti in Afghanistan. Godetevi lo spettacolo, le vittime e la difesa di Dalla Russa. Questo è il titolo che per esempio scelgono in prima pagina il Fatto Quotidiano. Ministro, godetevi lo show, lo sfogo di uno zio delle vittime con la russa che dice i parenti delle vittime possono avere diritto a qualsiasi reazione. C'è il ministro degli esteri Frattini che fa un'intervista in pagina 3 di Repubblica, Vincenzo Nigro. I militari italiani, dice Frattini, sanno benissimo perché sono impegnati in quella missione in Afghanistan. Dopodiché hanno tutto il diritto a essere stanchi, a raccontare che hanno la sabbia anche nelle orecchie, dopo magari che nella polvere ci hanno passato un turno massacrante di 5 giorni. I nostri militari però sono lì per proteggere l'Italia, per evitare che i terroristi collegati ai gruppi presenti in Afghanistan e Pakistan possano arrivare fin qui, Europa, a casa nostra, alle famiglie dei nostri militari che per me sono caduti da eroi, voglio confermare che un piano politico per l'Afghanistan c'è, che i loro cari non sono stati mandati allo sbaraglio in una missione impossibile. Frattini in questa intervista dice: i nostri soldati sono eroi, capisco la loro stanchezza, il ritiro inizia la prossima estate, anche perché ieri leggevo il fondo di Giuliano Ferrara, ma il Corriere della Sera per esempio sottolinea come sia il fronte degli scettici nei confronti di questa missione comincia un po' ad allargarsi. Oltre a Giuliano Ferrara, da Ferrara a Formigoni, i nuovi dubbi sulla missione, anche il presidente della Lombardia Formigoni dice: mi sto molto interrogando, credo sia arrivato il momento per un riesame globale della situazione. Beh, la Lega già con Bossi, già in altre occasioni tragiche di altre morti di militari italiani, aveva manifestato dei dubbi. Ora è stato in questi giorni Luca Zaia, il governatore del Veneto, a parlare di exit strategy e prima è, meglio è. Insomma, diciamo che i dubbi cominciano a serpeggiare sulla validità di questa missione. Ovviamente poi nell'occasione di questo omicidio brutale di quattro militari è chiaro che i dubbi aumentano. Il manifesto cambia un po' la prospettiva. Con Emanuele Giordana da Kabul fa un resoconto dei raid visti dal basso, questo è il titolo, una strage di innocenti, ci si concentra cioè sulla uccisione di persone che vengono troppo spesso trascurate, vale a dire i civili afghani. In Afghanistan 14 civili vengono ammazzati ogni giorno, il bilancio più tragico dall'inizio della guerra. Se c'è un argomento che suscita in ogni afghano risentimento, rabbia o preoccupazione è il tema questo delle vittime civili, racconta Emanuele Giordana. Ogni giorno appunto 14 civili uccisi, negli ultimi 6 mesi del 2010 si è registrato all'alba del 10° anno di guerra il numero più elevato di morti e feriti tra la popolazione. Questo secondo il monitoraggio di Afghanistan Rights Monitor. Nel primo semestre 1.074 civili uccisi, mentre oltre 1.500 i feriti. I raid visti dal basso, c'è anche questo aspetto della guerra, vale a dire le vittime dei civili. Io ricordo che tra l'altro Radio 24 seguirà i funerali in diretta questa mattina, credo alle 10.30 inizieranno. Veniamo alla politica. Da un paio di giorni, ieri è stato operato alla mano, al tendine, Silvio Berlusconi, che doveva stare a riposo 7 giorni. Anche il suo medico personale Zangrillo dice: forse il riposo in altri casi sarebbe anche minore. Però Berlusconi è tirato, Berlusconi è stanco, approfittiamo per lasciarlo 7 giorni fino a domenica a riposo. Ieri Berlusconi, la notizia politica è questa, accontentiamoci, insomma non è che ci sono grandi notizie politiche, anche perché nei giorni scorsi ce ne sono state, nei mesi scorsi, e spesso neanche non molto piacevoli per per molti italiani. La notizia politica di questi giorni invece è il fatto che Berlusconi abbia criticato un paio di giorni fa il PDL, il partito, e lo ha fatto pubblicamente. E allora tutti a interrogarsi a questo punto: che succede? Che cambierà nel partito del Popolo della Libertà? Salvatore Merlo, che è il commentatore politico del Foglio, fa un'intera pagina: il PDL tra apostoli e macerie. Così il Cavaliere esamina il suo partito regione per regione. È alle viste un congresso? No, qualche novità parademocratica. E il problema è che ci si interroga a capire che cosa cambierà nel partito Silvio Berlusconi, tanto che Sandro Bondi, che è uno dei tre coordinatori, prende carta e penna e scrive una lettera al Giornale, pubblicata in prima pagina. Il titolo è: nel PDL non sarò io a frenare il rinnovamento. Dico che le parole del presidente Berlusconi non devono essere sottovalutate né utilizzate per un'utilità personale. Insomma, Bondi si mette in qualche modo a disposizione, dice: il modello fondato sulle tessere è finito, diamo spazio agli amministratori e agli eletti a livello locale. Bisogna ricomporre l'area moderata, dall'UDC al Future Libertà, in una coalizione tra forze autonome. Insomma, un po' quelle lettere di politichese molto dense. Chi parla più chiaro invece è il ministro Giancarlo Galan. Rilascia un'intervista al Corriere della Sera, pagina 12, per parlare proprio di questo partito. E sentite cosa dice Galan, uno che questo partito l'ha fondato nel 94, che viene dalla rete di Publitalia. Il partito è allo sfascio. Parola di Galan, non è che fa questa intervista a Lorenzo Fuccaro. Eccolo qua: Berlusconi è fin troppo buono, deve darsi una mossa, tutto il partito, non solo in periferia. E aggiungo, dice Galan, su questo Berlusconi ha ragione, che l'azione del governo è stata buona, scadente è l'attività del PDL. Per esempio, i voti al nord li prendiamo nonostante il partito sia allo sfascio. Se si votasse oggi in tutta Italia prenderemmo una batosta storica. Sono forse quello che più di tutti sente la necessità di una svolta. Nel 94 era tutto diverso, speranze, futuro, modo di parlarne. Avevamo trascinato nella politica persone che ne erano lontanissime. Siamo partiti da questo e adesso ci ritroviamo ad ascoltare il verbo di coloro che predicavano nelle prime legislature del dopoguerra. Insomma, lei invoca il ritorno allo spirito del 94. Non solo, se fossi Berlusconi non ascolterei quelli che parlano di procedure organizzative, tesseramento. Rischieremmo di trasformarci in un partito tradizionale. Io cosa suggerisco? Cose bestiali per le quali rischio di essere espulso. Berlusconi dovrebbe buttarci fuori, me compreso, e provocare un nuovo shock come quello del 94. E ancora, un'altra proposta, visto che questa magari non è fattibile, che ancora mi potrebbe portare all'espulsione. Mi domando com'è possibile che qualcuno faccia il ministro e il coordinatore. Lei insomma punta l'indice contro Bondi e La Russa. No, non ce l'ho con loro, ma con quelli sotto, gente che fa il sindaco, il deputato e il coordinatore di partito. Ma come fanno? Sono forse dei fenomeni? Io non ci riuscirei mai. Insomma, in questa intervista Galan dice: altro che scossa, lei sta fustigando i vizi del PDL. E Galan: al di là di Berlusconi non siamo amati come un tempo, non suscitiamo più entusiasmo. Ma si ricorda il clima che c'era attorno alla nave azzurra? Un Galan molto molto critico nei confronti del partito, che definisce in alcune circostanze allo sfascio. Mentre, sempre per capire che cova questa maretta sotto traccia, no? Oggi Alberto D'Argenio vince il premio retroscena della politica su Repubblica, ma, a pagina 9, l'avvertimento di Fini: il governo può cadere davvero sulla giustizia. Non ha nessuna intenzione di riportare l'Italia alle urne, ma dice: teniamoci pronti. Questo è il mantra, no? Un po' di tutti. Cioè, traducendo, perché tutti capiscano, nessuno vuol far cadere il governo, però tutti si stanno preparando. Berlusconi vorrà andare avanti a imposizioni. Se io parlo di legalità e loro lo ignorano, la sopravvivenza dell'esecutivo è segnata con una postilla. La propaganda è il cancro della politica italiana. Virgolettati attribuiti a Gianfranco Fini, che dice: prometto assoluta lealtà al governo, ma sulla giustizia il governo potrebbe cadere. È inutile fare previsioni di tipo astronomico. Se quando io parlo di legalità loro ignorano ciò che dicono, ciò che dico già sanno a cosa vanno incontro. Intanto si registra una stretta di mano ieri tra Fini e Berlusconi. I maligni, super maligni, dicono stretta di mano, e subito dopo Berlusconi è andato a farsi operare a Milano alla mano. Ma tranquilli, era la mano, è la mano sinistra, e dunque non è la mano che ha stretto quella di Fini. La notizia politica del giorno però la trovo sul Sole 24 Ore. La racconta Mariolina Sesto a pagina 18. In assoluto, il vincitore della giornata politica è Giuseppe Pizza, sottosegretario all'istruzione, fedele alleato di Silvio Berlusconi. Tra l'altro, ve lo ricordate, è quello che già rischiò di mandare a catafascio le elezioni, credo le ultime, perché presentò un ricorso all'ultimo momento, dovettero forse ristampare tutte delle schede, perché aveva presentato un simbolo della DC, insomma non si era capito bene. Sta di fatto che poi alla fine riuscirono a convincerlo a desistere da questa cosa e si è ritrovato sottosegretario. Per carità, avrà grandi competenze all'istruzione. Che t'ha fatto Giuseppe Pizza? Pizza, che è un fedelissimo di Berlusconi, ha depositato il logo di Futuro e Libertà, il logo di Fini. Ebbene sì, sottosegretario, ha depositato presso l'ufficio brevetti del Ministero dello Sviluppo Economico l'8 settembre, proprio il giorno in cui Fini decideva di aderire al gruppo Futuro e Libertà, Pizza, o meglio due esponenti della DC di Pizza, insomma non lui personalmente, due esponenti della DC di Pizza sono andati a depositare il logo Futuro e Libertà per l'Italia e anche il logo FLI, proprio quello di Fini. Ma loro sono berlusconiani, ma che l'hanno fatta fare? I finiani infatti si sono infuriati, hanno subito presentato un atto di inibizione nei confronti dei DC di Pizza, perché i gruppi parlamentari col nome FLI esistevano già da qualche settimana. Italo Bocchino dice: questi signori lo fanno per abitudine. E infatti i DC di Pizza hanno depositato anche il logo Partito della Nazione, che è il nuovo movimento in cui naviga l'UDC di Pier Ferdinando Casini. Insomma, ma perché lo fanno? Non lo so, la domanda è, cioè, per disturbare, per infastidire. Io mi chiamo Futuro e Libertà e io ti vado a depositare Futuro e Libertà. Io mi chiamo Partito della Nazione e io, che sono di un altro partito, vado a depositare quel logo, così non lo puoi più utilizzare. Non lo so, forse poi mi devi dare dei soldi, forse poi creo casino, così. Va bene, la DC di Pizza deposita il logo di Futuro e Libertà, è lite Mariolina Sesto sul Sole 24 Ore, il traffico. In primo piano. Verdini ha mentito sui suoi affari, così raccomandò Fusi negli appalti, è il titolo di pagina 2 e 3 del Corriere della Sera, con la firma Fiorenza Sarzanini, che pubblicano un rapporto del ROS dei Carabinieri, secondo il quale il coordinatore del PDL, uno dei tre coordinatori del partito, ha avuto rapporti societari con l'imprenditore Riccardo Fusi fino alla fine di giugno 2007 e non fino al 95-96, come ha detto in un interrogatorio Verdini, e avrebbe aiutato Fusi ad ottenere degli appalti per la ricostruzione in Abruzzo. Questo è, diciamo, l'ampio risalto che viene dato nei confronti di Verdini. Ripeto, è l'apertura del Corriere, pagina 2-3. Con questo voglio chiudere la politica per passare ad altro. Il Sole 24 Ore, che come detto pubblica un interessante documento visto in anteprima, riguarda il risparmio, le politiche di risparmio energetico, il contenimento dell'anidride carbonica avviate dai paesi industriali e quello che potrebbe costare questo in perdita di PIL da qui al 2050, tra 5.000 e 10.000 miliardi di dollari in meno. L'OPEC teme il declino e Sissi Bellomo ne scrive a pagina 3 del Sole 24 Ore, ma l'articolo più interessante che notate è quello che troviamo a pagina 8, e vale a dire riguarda l'evasione fiscale, il nuovo strumento messo a punto dalla Guardia di Finanza per combattere le ricchezze nascoste e controllare l'anagrafe dei contribuenti. È il servizio per le informazioni sul contribuente, in acronimo SERPICO, proprio come il leggendario Serpico. Infatti il Sole 24 Ore ci dedica anche un commento in prima pagina: il fisco arruola Serpico per scovare le ricchezze nascoste. Eccolo qua, Marco Bellinazzo a pagina 8 ne parla con un click. Dopo tante chiacchiere distintivo, direbbe qualcuno, eccoci al cospetto di Serpico, una schermata sobria, declinante nel turchese come le pareti di certe sale d'attesa di pediatria, una griglia di opzioni quasi anonima, non dissimile dalle decine delle quali stanno incollati al PC. Dietro questa home page però c'è tutto, tutta l'anagrafe dei contribuenti italiani. Mi viene quasi l'inquietudine. Basta mettere il codice fiscale, cognome e nome. Oltre 40 milioni di italiani scandagliati nelle loro ricchezze. Tutta la vita in un click, i beni posseduti, i perimetri catastali di case, appartamenti, il capitolo spese, quanto si spende in un anno per elettricità, gas, telefonia, l'acqua, le iscrizioni ai circoli ippici, nautici, ai club esclusivi, i viaggi in luoghi più o meno esotici. Insomma, interagendo con il database, l'Agenzia delle Entrate può scoprire tutto. Contro gli evasori a Serpico basta il codice fiscale. Basta un codice fiscale ed eccolo qui. Le persone fisiche, i soggetti, le chiavi di ricerca, tutto con un semplice software, o meglio semplice, a sapere tutto ciò che spendiamo. Ecco il nuovo strumento contro l'evasione fiscale. Marco Bellinazzo scrive che l'obiettivo è quello di recuperare per il governo da qui al 2011 almeno 20 miliardi di euro attraverso questo, tra ovviamente il contrasto all'evasione come primo obiettivo, attraverso questo semplice strumento. Arriva Serpico contro l'evasione fiscale. A proposito di evasione fiscale, ci sono ancora tanti ascoltatori che mi scrivono di una vecchia inchiesta che avevamo fatto riguardante le slot machine, una presunta mega evasione fiscale da 98 miliardi di euro, di cui parlò per la prima volta qualche anno fa, il secolo XIX, e molti ci scrivono di che fine ha fatto quell'inchiesta, perché la Corte dei Conti, lo Stato, chiedeva 98 miliardi di euro di presunta evasione fiscale da chi? Dai gestori delle slot machine. Perché? Perché quando nel 2002 erano state regolamentato il mercato, per cui ogni macchinetta di slot machine doveva essere collegata con un sistema telematico di controllo centrale, secondo la Corte dei Conti questo non è avvenuto, questo sistema di controllo, per cui molte slot machine hanno fatturato per anni, hanno mangiato soldi in nero, e la Corte dei Conti ha sta contestando una cifra di evasione fiscale dei controllori, dei gestori di questo sistema, per 98 miliardi di euro. Eccoci qua, siamo alle battute finali del processo. Il secolo XIX, pagina 6, scandalo slot, il PM chiede 98 miliardi. Entro due mesi la Corte dei Conti, ieri c'è stata l'udienza, la Corte dei Conti nella sede nazionale, alle 10 concessionari in Italia delle slot machine, il PM chiede 98 miliardi di euro. Quando arriverà la sentenza? Forse tra un paio di mesi. Per esempio c'è Atlantis World, la maggiore concessionaria, alla quale vengono chiesti 31 miliardi di euro, alla SNAI 8 miliardi di euro, HBG 7 miliardi, sul secolo XIX ci sono tutto l'elenco. Anche il Fatto Quotidiano ci fa una pagina, pagina 5, slot in nero, sconto di governo. Ecco qui perché 98 miliardi è la richiesta, secondo il Fatto per la verità è già scesa a 88 miliardi, non si capisce, insomma ballano 10 miliardi di euro, comunque 98 o 88 miliardi di euro è una mega evasione, ma potrebbe tutto concludersi con un accordo per ottenere 30 milioni di euro di risarcimento. Ovviamente i concessionari dicono quella cifra, ci chiedete quella cifra, è come mandare gambe all'aria tutto. Allora tra due mesi forse si saprà e noi ve lo faremo sapere. 98 miliardi come chiede la procura della Corte dei Conti o 30 milioni di euro, ci sarà un accordo? Chi lo sa, o meno, o chi lo sa, o verranno assolte, non verrà data nessun tipo di multa. Oh, sono alla conclusione velocissima, la voglio dare solo dal Manifesto, io non ci voglio credere. Pagina 7. La guerra alla prostituzione si arricchisce di un nuovo strumento, forte, sicuro e infallibile, la motosega. Non fate ironie. Se le meretrici e i loro clienti sostano tra la boscaglia che cresce rigogliosa lungo il fiume Tronto, che cosa ti è stato escogitato per risolvere questo problema di prostituzione? Disboschiamo, abbattiamo 30 ettari di bosco, Questo, secondo il manifesto, io non ci voglio credere, la geniale idea che sarebbe stata partorita dagli amministratori abruzzesi regionali e locali dei comuni del Teramano. Il WWF, la Lipu, il Pro Natura si appellano, ma questa sarebbe la soluzione. Prostitute nel bosco e la regione decide di abbattere il bosco. Il GR. 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. La protagonista della nostra intervista di oggi è Ilaria Cucchi, che saluto. Buongiorno Ilaria. Buongiorno. Ilaria Cucchi, suo fratello Stefano, ricordate il caso di cronaca, fu arrestato un anno fa tra il 15 e il 16 ottobre con 20 grammi di droga e poi morì in circostanze non ancora chiarite, mai chiarite, il 22 ottobre scorso. Ora questa storia è diventata anche un libro dal titolo Vorrei dirti che non eri solo, edito da Rizzoli, scritto col collega del Corriere della Sera Giovanni Bianconi. Senta Ilaria, le chiedo, ha visto la vicenda di Federico Aldrovandi, la cui famiglia, ragazzo morto durante un fermo di polizia a Ferrara, la cui famiglia ha ottenuto un risarcimento di 2 milioni di euro. Voi pensate che sia giusto un risarcimento anche per la vostra famiglia? Io innanzitutto premetto dicendo che tutto sommato paragonare un risarcimento economico ad una vita umana è una cosa che veramente mette tristezza. Però è importante come segnale, è comunque un modo che ha lo Stato per ammettere che al proprio interno c'è stato qualcosa che non ha funzionato e quel qualcosa è costato la vita a qualcuno, allora è quasi un modo di chiedere scusa. E allora così assume un significato diverso. Cioè lo accettereste anche nel caso se venisse proposto? Perché il sindaco Alemanno per esempio ha detto mi auspico che anche nel caso di Stefano Cucchi, anche nel caso di Gabriele Sandri possa esserci un gesto del genere da parte dello Stato. Sì, io ovviamente anzi colgo l'occasione per ringraziare il nostro sindaco che fin dal primo istante ci aveva offerto la sua solidarietà, il suo sostegno e ha tenuto fede a questo impegno assunto con noi, prima di tutto costituendosi come comune parte civile del nostro processo e poi con parole significative nei nostri riguardi. In ogni caso gliela rifaccio la domanda, lo accettereste un risarcimento? Guardi, noi siamo all'inizio di questo percorso, oggi non so che dirle, oggi mi preme solamente arrivare alla verità, mi sembra ancora qualcosa di tanto lontano, soprattutto nella situazione in cui ci troviamo, che parlare addirittura già di un risarcimento oggi per me è impensabile. E il risarcimento che chiedo allo Stato è semplicemente la verità e oggi siamo lontani dalla verità, ho come l'impressione che arriveremo alla fine di un processo in cui uscirà fuori una qualche giustizia di comodo, ma non la verità su quello che è successo al mio fratello. Perché teme che non ci sia una ricerca di verità? Perché noi stiamo iniziando ad affrontare questa battaglia nel modo sbagliato, con una grande bugia. Io sento in continuazione parlare di lesioni lievi, quelle lesioni sono quelle che hanno ucciso mio fratello e allora partire in questo modo, in qualche modo addossare tutta la responsabilità al dopo, quindi ai medici che l'hanno abbandonato e questa è una colpa grave, però negare quello che c'è stato prima e l'ha portato al Pertini e poi alla morte è negare la realtà e arrivare a un processo in questo modo sinceramente non mi interessa. Le chiedo, è quello che ha scritto Pierluigi Battista nei giorni scorsi sul Corriere, non dobbiamo pensare che quella di Stefano Cucchi sia una tragedia privata però che riguarda la famiglia, perché non dovremmo pensare che è una tragedia, perché è una tragedia, si tratta perdita di una vita umana, ma che debba rimanere una vicenda privata, vostra? Perché innanzitutto è un qualcosa che potenzialmente può capitare a chiunque di noi, perché mio fratello era una persona che aveva fatto degli sbagli, ma era una persona normale, con una famiglia alle spalle, che in tanti momenti lo aveva aiutato ad affrontare delle serie difficoltà. In quel momento è stato inghiottito dalle strutture delle istituzioni, da quel momento la sua famiglia non ha saputo più niente di lui e poi dopo 6 giorni è morto in condizioni disumane. Questa è una cosa che riguarda tutti, che deve in qualche modo smuovere le coscienze di ciascuno di noi, perché non può succedere questo in Italia. Ho capito che se una persona muore all'interno delle istituzioni, poi le istituzioni che almeno per quanto ci riguarda erano dalla nostra parte, perché noi abbiamo sempre avuto fiducia nelle istituzioni, all'improvviso diventano come nemiche e contrapposte, alzano un muro e anziché darti delle risposte mettono in discussione questione, nel mio caso mio fratello, alla fine in qualche modo è come se la colpa sia di chi è morto e non di chi ne ha causato la morte. Le chiedo, sa che molti dicono, ma insomma, diciamo la verità, il Stefano Cucchi per esempio spacciava droga, come se questo, lo so, è terribile, dovesse giustificare quello che poi è successo. Lei di fronte a queste posizioni come risponde? Innanzitutto, quando abbiamo iniziato questo percorso, io sapevo che ci sarebbe stato una sorta di processo parallelo in cui si sarebbe messo in discussione mio fratello e addirittura i nostri rapporti familiari. Io dico semplicemente che questo non c'entra niente con quello che gli è successo. Mio fratello aveva sbagliato e sono io la prima a dirlo. Ci sono delle leggi e vanno necessariamente rispettate. Però poi chi comunque deve far rispettare queste leggi deve anche tutelare l'essere umano. Non esiste la pena di morte in Italia, nel caso di mio fratello è stata applicata. Infine le chiedo, proprio ai nostri microfoni un anno fa, quando ci furono le polemiche, il sottosegretario Giovanardi disse, ma insomma diciamo la verità, forse in uno sfogo un po' poco controllato, la verità verrà fuori, Stefano Cucchi è morto perché era tossicodipendente e anoressico. Vi siete mai chiariti? Non c'è mai stato un vero e proprio chiarimento, c'è stata una telefonata da parte del sottosegretario Giovanardi nella quale cercava in qualche modo di spiegarmi il senso delle sue parole. E io continuo a pensare che quelle sue parole sono state del tutto, oltre che false, inopportune nei confronti di una famiglia che stava soffrendo e nei confronti di una persona che non poteva difendersi più. Io dico semplicemente che mio fratello innanzitutto non era anoressico, non era tante delle cose che gli sono state attribuite. E soprattutto mio fratello non è morto perché era un tossicodipendente, non è morto perché a 16 anni si faceva gli spinelli, mio fratello è stato ucciso ed è una cosa diversa. Io mi fermo qui e la ringrazio per essere stata con noi. Voglio ricordare ancora Vorrei dirti che non eri solo, editore Rizzoli, scritto con Giovanni Bianconi, se qualcuno vorrà leggere la storia di Stefano Cucchi raccontata dalla sorella Ilaria Cucchi. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Noi ci fermiamo per pubblicità e meteo. Nel nostro sondaggio parliamo di scuola, perché sono sempre di più gli sponsor, parliamo così, sponsor privati che pagano i banchi, che pagano le strutture, le sedie, tutto ciò che serve per la scuola pubblica. Perché? Perché i soldi non ci sono. Allora, questa cosa vi scandalizza? L'idea che ci siano dei soldi privati nella scuola pubblica che non ha fondi per comprare il materiale scolastico? Votate su radio24.it nell'homepage bianco o nero, ne parleremo tra poco dopo la pubblicità. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qui a parlare di scuola e dei soldi che servono per la scuola, soldi che spesso non ci sono per la scuola pubblica, soldi che in alcuni casi arrivano dai privati. Allora, tutto questo secondo voi è giusto? Vi chiediamo nel nostro sondaggio di oggi. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Vabbè, l'ultima idea è stata lanciata dalla provincia di Barletta Andrea Trani nei giorni scorsi, no? Ha invitato gli imprenditori a investire nell'arredo scolastico perché mancano i fondi e quindi bisogna provvedere in qualche modo, lanciando un bando ai privati a dire fornite anche voi dei soldi in modo che compriamo banchi, sedie, eccetera. Poi se vorrete parleremo anche dell'anticipazione data dal Sole 24 Ore domenica scorsa, vale a dire quella di l'ipotesi di una scuola SPA, scuola SPA, lo studio del governo, una sorta di società per azioni per conferire la proprietà degli edifici scolastici e la competenza per la loro manutenzione e messa in sicurezza, che oggi incarica agli enti locali, anche a privati. Ne parliamo con Mimmo Pantaleo, che saluto, buongiorno, segretario della CGL Scuola, diciamo così. Sì. E saluto l'onorevole Francesco Di Vella di Future Libertà. Onorevole Di Vella, buongiorno. Buongiorno. Anche imprenditore noto del settore alimentare. Sì. Le chiedo subito, Di Vella, lei per esempio la sua azienda come imprenditore, avete già in passato, insomma credo da anni, fate questa attività nei confronti delle scuole, ecco, lei come la vede, voglio dire, soldi privati per le scuole pubbliche? Io come la vedo in generale, come l'intervento dei privati non solo nella scuola ma in tutti i settori dove le istituzioni molte volte sono carenti, lo vedo come un fatto positivo. Noi da 20 anni che destiniamo parte degli utili, se ce ne sono, di bilancio a operazioni di questo tipo. Devo dire la verità, fino ad oggi pervenivano richieste da singole scuole, da singole unità, di più che di banche e sedie di tecnologia, non so, lavagne elettroniche, computer. Sì. Ora, non stiamo a vedere se erano lavagne elettroniche o banchi e sedie. Ritengo che un incontro tra istituzioni e privati su operazioni di questo genere sia un fatto innovativo e positivo. No, perché qui Mimmo Pantaleo vorrei coinvolgere, lei ha parlato di supermarket, di privatizzazione, sì, di addirittura, sì. Cosa scandalizza nel fatto che se i soldi pubblici non ci sono, perché purtroppo non ci sono, si fa ricorso anche all'aiuto di privati? Guardi, i soldi pubblici non ci sono perché non si vuole trovarli. Ormai si è deciso da parte di questo governo di andare ad una demolizione del sistema dell'istruzione pubblica. Da anni noi poniamo la questione di un grande intervento sull'edilizia scolastica e per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Furono stanziati 1 miliardo di euro, una parte delle quali poi fu dirottato al terremoto in Abruzzo e un'altra parte servita per pagare la cassa integrazione in deroga. Ora, non è con questi mezzucci che si risolve il problema del nostro paese, che è quello appunto di avere un sistema di edilizia scolastica e un grande progetto di manutenzione sugli edifici che consenta di garantire a coloro i quali operano nella scuola e gli alunni di poter avere una scuola all'altezza dei tempi e poter... Questo certamente, questa è la questione, no, ma questa è la questione, ora, è la questione degli edifici, ma magari tra un attimo ci vediamo, ma che cosa ci vede di strano nel banco nella lavagna? Questa storia delle aziende che sponsorizzano banchi, lavagne, io lo trovo del tutto assurdo, anche perché i messaggi che si danno sono messaggi da supermercato. Ad alcune scuole di Roma la sponsorizzazione riguarda una pizzeria e un supermercato. E lei crede, Pantaleo, che non l'abbiamo... La prospettiva della scuola italiana. Lei crede che non l'abbiamo chiamato? Tra poco sarà con noi Roberto Imperatori, che è il responsabile dei supermercati SIR di Roma. Lo sentiremo, Pantaleo. Ha sentito Di Vella, cioè l'accusa essere... Perché un'azienda investe come la sua, o come un'azienda debba investire o si sente investire nel materiale scolastico, che siano lavagne, computer, banchi, quello che è, Di Vella? Sta a me la domanda? Sì, certo. La Di Vella è una grande impresa meridionale e sente questo bisogno di reinvestire nel sociale perché ritiene che parte della propria fortuna viene dal proprio territorio e quindi sente questa necessità. Certamente non ha richiesto assolutamente a nessuno di mettere il marchio della Di Vella su quanto abbiamo mangiato. Sì, qualche volta ci sono state delle manifestazioni in cui abbiamo partecipato, abbiamo spiegato il significato di questo intervento, ma innovare in questo campo e far incontrare le istituzioni con il privato significa in un certo senso smetterla col pensare che quanto viene dai privati sia sterco del diavolo. Non vorrei che fossimo ancora arretrati al secolo scorso quando era questa sensazione che noi avvertivamo, noi privati, era una sensazione che aveva fondamento. Siamo in un nuovo secolo. Tutte le nazioni moderne, cominciando dagli Stati Uniti d'America, dove il privato sponsorizza di tutto e di più, ma perché solo in questo paese il colloquio tra le istituzioni e il pubblico non debba avvenire? Questo chiedo all'amico Pantaleo, che conosco la vecchia data. Questo ma è molto interessante, Pantaleo. Io vorrei aggiungere questo per parlare appunto di questa SPA per gestire le scuole, no? C'è un istituto, l'Istituto Promozionale per l'Edilizia, di cui ho conosciuto anche l'amministratore delegato, l'Ispredil, che ha proposto da un po' di tempo a dire: prendiamo in carica questi edifici. Sono 14.700 gli edifici in Italia scolastici che hanno bisogno di manutenzione, alcuni addirittura dovrebbero essere demoliti e ricostruiti, giusto per essere chiari. E perché l'onorevole Di Vella dice: lo vedete come lo sterco del diavolo, l'intervento del privato? No, assolutamente no. Io ritengo che un rapporto più stretto e più organico tra scuola e imprese in generale è fondamentale per questo paese. Naturalmente le esperienze devono alimentarsi a vicenda, cioè nel senso che non può essere piegata la scuola a interessi economici, ma la scuola deve essere anche un'opportunità per innovare, per riorganizzare l'impresa, per migliorare le competenze professionali. Quindi nulla da questo punto di vista deve ostacolare questo rapporto. Ma che c'entra tutto questo con la sponsorizzazione dei banchi o delle lavagne? Io ho sentito il dottor Di Vella e io sono d'accordo con le cose che dice. Non è una sponsorizzazione. Io do risorse alle scuole, ma senza richiedere sostanzialmente un messaggio pubblicitario per la mia azienda. Qui siamo di fronte ad un'altra cosa, ad uno scambio. Io do le risorse e metto la targhetta. Allora, Pantaleo, vogliamo ascoltare Roberto Imperatori, che è qui, ci ha raggiunto. Roberto Imperatori, buongiorno. Buongiorno a tutti. Direttore del ristorante Lo Zio d'America e dei supermercati Sir di Roma. Così abbiamo fatto pubblicità anche un po' noi, però insomma, questo è il dato di fatto. Lei ha messo, credo, la sua azienda, 7.000 euro circa per comprare... Per comprare che cosa? Banchi, sedie? Sì, diciamo, abbiamo risposto all'appello disperato e nello stesso tempo un po' ingegnoso del presidente del primo municipio Corsetti. Di Roma? Di Roma, sì, del primo municipio di Roma, Orlando Corsetti, e ci è sembrata un'idea abbastanza innovativa per quanto ci riguarda, perché non era mai successo, specialmente qui a Roma. E ovviamente però in cambio le chiedo, molto brutale, che c'è su sto banco? Su sto banco c'è, allora, lo Zio d'America, c'è la targhetta sul banco? Ma premesso che diciamo, per quanto ci riguarda, se c'è o non c'è questa targhetta poco ci importa, perché tante volte si fanno anche le cose solo a scopo benefico, per fare del bene alla collettività, specialmente quando si tratta dell'istruzione dei bambini e del nostro futuro. Al di là di questo, spetta poi alle autorità comunali far sì che o la targhetta o non targhetta decida qualcosa. Ci sa, però per noi, lei lo saprà se c'è un cambio. Tutta una questione puramente di collettività e di fare del bene a qualcuno. Ma lei saprà se avrà un ritorno? Le avranno detto, le mettiamo uno striscione nella scuola, una targhetta? Ma guardi, sinceramente ancora non è stato affrontato questo discorso, ma le continuo a dire, perché per noi non è fondamentale questa cosa. Ma la tipologia di intervento. Allora, si fermi qui, fermatevi qui un attimo, do le informazioni sul traffico, però l'accusa, siccome quella di Pantaleo è molto diretta, cioè quella di trasformare la scuola in un supermercato, da qui voglio ripartire con i nostri ospiti. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, detto che vi state dividendo su Radio24.it, il 53% per ora, leggera prevalenza del sì, i soldi privati, sponsor privati per finanziare le scuole pubbliche, siete d'accordo? Ma comunque, insomma, 50-50, diciamo così. Allora, con Roberto Imperatori, l'accusa di voler trasformare la scuola in un supermercato, lei che è anche responsabile di supermercati, insomma, chi meglio di lei può rispondere, Imperatori? Sì, ma diciamo che, allora, premesso che è normale che se lo Stato riesce a far sì che la scuola sia gestita interamente dallo Stato senza problematiche di sorta, è normale che è giusto così, ma in questi momenti di crisi, in questi momenti dove la crisi è in tutti i settori, dal privato al pubblico, galoppa, sarebbe opportuno che non solo nella scuola ma anche nelle altre attività, un intervento del privato dove qualora essi vogliano in qualche maniera partecipare a scopi benefici o di beneficenza, e ripeto, o mettendo targhetto, o mettendo sponsor, o mettendo qualcosa, oppure non mettendo niente, basta che si fa del bene per la collettività. Onorevole Di Vella, lei la vede, secondo lei è importante, fondamentale che ci sia o non ci sia la targhetta, che ci sia la sponsorizzazione o no? Questo cambia le cose? Di Vella. No, guardi, se lei fa una domanda diretta a Di Vella come impresa, io dico che non avrebbe bisogno di fare questo tipo di sponsorizzazione. Certo, sui banchi. È più da piccola o microimpresa a livello locale un tipo di risposta di questo tipo. Però io ritengo che se l'approccio delle istituzioni non fosse stato questo, dici io dammi, partecipa a questo bando e io ti faccio fare pubblicità, sponsorizzazioni, io penso che sarebbe stato, non ci sarebbero state queste prese di posizioni come quella dell'amico Pandaleo. Io dico, fermo restando che si può fare un discorso di pubblico e privato, e sarebbe auspicabile finalmente, allora vediamo come meglio realizzarla questa collaborazione. Sì. Io ritengo, specialmente in un distretto produttivo come quello di Andria, Trani e Barletta, dove vi sono decine e decine di imprese medie, piccole e qualcuna anche grossa, questa collaborazione certamente sarebbe auspicabile. Avrebbe risultati sorprendenti in quell'area. No, infatti, ma l'assessore della provincia l'ha lanciata, vediamo se ci sarà un appello che verrà accolto dagli imprenditori. Allora, 800 24 00 24, se volete intervenire. Sentiamo Marcello da Roma, buongiorno, che ci ha chiamato. Buongiorno, senta, io mi permetto di portare l'esperienza del mondo universitario, in particolare della Sapienza di Roma. Devo dire che oramai i risultati conclamati degli ultimi 30-35 anni, autonomia universitaria, eccetera, eccetera, hanno dimostrato che il concetto di pubblico, che comunque deve essere perseguito nell'ambito dell'istruzione, e questo vale per l'università, per la scuola media superiore ed inferiore, deve cambiare. Il pubblico in Italia è stato devastante. Noi abbiamo le università che sono allo sbando economico perché il pubblico è stato gestito nel modo che si può immaginare, cioè molti avevano i propri interessi. Quindi lei dice... Aspetti, mi faccia fare un esempio così... Sì. Il signor Pantaleo capirà perfettamente. In Italia abbiamo circa 60.000 docenti e abbiamo anche 60.000 tecnici amministrativi. Ora mi dica lei se nell'ambito universitario il rapporto deve essere 1-1. Vabbè, però questa è un'altra questione. No, il signor Pantaleo sa perfettamente perché questo è avvenuto. Perché purtroppo nell'ambito pubblico non c'è un controllo serio di come vengono spesi i soldi. In pratica c'è un controllo molto marginale, spesso c'è l'autocontrollo, e di conseguenza invece l'intervento del privato comporterebbe non la mentalità aziendalistica, ma comporterebbe invece un controllo, un'attenzione sull'opportunità di certe spese con il ritorno. Perfetto, quindi lei è favorevole, insomma, dice perché no? Perché deve cambiare anche la mentalità della gente. La gente non può continuare a pensare che la cultura venga data gratis. Ci abbiamo la scuola allo sbando, i ragazzi non sanno più nulla perché questa scuola non dà più nulla. Va bene, Marcello, si fermi, altrimenti facciamo una lezione universitaria. Grazie. Elena da Lodi, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Io sono molto favorevole, volevo portare la mia doppia esperienza di madre con due figli sui banchi di scuola e quindi con le perplessità delle famiglie che pensano che le aziende che entrano nel mondo della scuola vogliono pubblicizzare il prodotto per aumentare le vendite. Sì. Questo le piacerebbe, cioè vedere, non so, supermercato Pinco Pallino sul banco di sua figlia? Ecco, però io siccome sono anche in un'azienda, in una multinazionale che investe, so che invece ciò che fa l'azienda in questo campo lo fa veramente per restituire, come diceva il suo ospite, qualcosa alla comunità, cui riconosce il merito di poter vendere certi propri prodotti, ma è una volontà proprio di restituire una parte del proprio guadagno di sostenere la società, perché le assicuro che all'interno dei consigli di amministrazione di un'azienda, se la volontà fosse quella di aumentare le vendite, il veicolo della corporate social responsibility non è quello, uno fa una campagna pubblicitaria, investe, lì c'è il ritorno. No, chiaro, sì, non è comprare 30 banchi di scuola, però io le chiedo giusto, mi dica solo se a lei da madre, non tanto sì. Le darebbe fastidio o no vedere la targhetta sulla sedia o sul banco, sempre che ci sia, perché ci sono aziende come appunto Di Vella, ci sta dicendo noi non mettiamo niente, lo facciamo appunto per quello che ci ha spiegato, per reinvestire sul territorio, nel sociale, nella scuola, qualcosa. Allora, il logo sul banco oppure in una il fatto di menzionare l'azienda e ringraziandola in un'occasione, a me farebbe solo piacere. Se di fronte ho una lavagna multimediale che permette a mia figlia di essere estremamente più interessata ad un argomento rispetto ad oggi. Va bene, è stata chiarissima Elena. Pantaleo, io non ho capito, allora, di questa scuole SPA che è allo studio, cioè questa idea per cui la gestione passerebbe ai privati delle scuole, ipotizzo così, è tutta un'ipotesi, la gestione passerebbe ai privati, dagli enti locali ai privati degli edifici scolastici che le ristrutturano eccetera, e il rendimento sarebbe garantito da un incasso di canoni di locazione pagati dagli enti locali che oggi sono proprietari degli immobili. Che cosa non funziona in questo? Cosa non le piace? Ma intanto vorrei tornare un minuto indietro. Sì. Noi non siamo contrari al fatto che le imprese possano contribuire al miglioramento anche della qualità della scuola, ma qui siamo di fronte ad un'altra questione, cioè in sostanza i privati mettono risorse che lo Stato non vuole mettere più. Quindi non siamo di fronte al potenziamento dell'offerta formativa attraverso l'acquisto di lavagne, sì, o però di queste altro sono materiale visioni. Cioè, quindi siamo di fronte a questo. Tremonti dice questo. Non ci sono, non è che non li vuole, ma se vuole si immagina che uno non vuole mettere a posto una scuola secondo le regole antisismiche. Su questo aspetto non sono assolutamente d'accordo. Va bene. Le risorse sono utilizzate per tutt'altro. Ma ci sono, ci sono, lei dice ci sono. Basta ci guardare al fatto che sono state sottratte alle scuole risorse per finanziare l'abolizione totale dell'ICI per i redditi alti. E allora, mi scusi, io faccio una provocazione: ci sono le scuole a rischio sismico, le lasciamo così perché non ci va? No. Adesso andiamo alla seconda domanda. No, le lasciamo così, cioè dico, ci sono i soldi, seguendo il suo ragionamento, ma si lasciano così in zone sismiche a rischio crollo, perché certo. Così? Ah sì, così. Certo, perché sono dirottate altrove. Risorse dirottate altrove. Ma è un atteggiamento criminale quello che lei mi descrive, scusi, certo, c'è una scuola che rischia di crollare. Ma vuole eliminare la scuola pubblica. Ah vabbè, sperando che una scuola crolli magari. L'unica distruzione è quella della scuola pubblica, sì, perché in realtà si vuol far posto ad una forte privatizzazione del sistema, su cui io non sono d'accordo. Detto questo, sulla scuola SPA, qui ci troviamo di fronte a un segreto di Stato, sì, nel senso che di questa ipotesi sì non è stata mai discussa con le organizzazioni sindacali. Beh, per quanto mi riguarda è allo studio, infatti. Sì, allo studio. Adesso vedremo di che cosa si tratta. Se si tratta della riproposizione della protezione civile SPA, noi non siamo d'accordo, anche perché i danni sono stati fatti e mi pare che la magistratura si sta occupando abbastanza celermente di tutti questi. Però su questo io devo chiudere, Pantaleo, devo chiudere, mi devo fermare. Grazie, torneremo su questo tema, vi rinviteremo, l'onorevole Di Vella, grazie, di Futuro e Libertà, Mimmo Pantaleo della CGL Scuola, Roberto Imperatori dei supermercati Sir, grazie a tutti. Allora, Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia, che dire, dalla linea Oscar Giannino, ci troviamo domani 7:20.